schiuma. Vedo i tuoi occhi irraggiungibili allontanarsi, oltre la corta lontaneretta di un'acqua folle, calda come lana e vampe. Non ho le altezze del cerchio lucente, caldo come una famiglia, ma ti vedo, verde e nuda. Ora, albume fermo di terra sciolta, con sopracciglia, con cappelli e tuniche di roccia, non mi avrai mai, perché io ti amo. Solo ed irraggiungibile mi muovo, e porto la tua polpa nel mio battito.